ad alta voce. Fausto Paravidino legge i racconti di Raymond Carver, traduzione di Riccardo Duranti. Collettori. Ero disoccupato, ma aspettavo notizie dal nord da un giorno all'altro. Me ne stavo sdraiato sul divano e ascoltavo la pioggia. Ogni tanto mi alzavo e attraverso le tendine guardavo se arrivava al postino. Non c'era nessuno in strada, niente. Non erano neanche 5 minuti che mi ero rimesso giù quando ho sentito dei passi sulla veranda. Una pausa e poi qualcuno che bussava. Non mi sono mosso. Sapevo che non era il postino. I suoi passi li conoscevo. Quando si è disoccupati e si ricevono solleciti di pagamento per posta o infilati in una busta sotto la porta, non si è mai troppo prudenti. A volte ti arrivano fino a casa con la scusa di volerti parlare, specialmente se non hai il telefono. Hanno bussato di nuovo, più forte. Brutto segno. Mi sono tirato su per cercare di sbirciare in veranda, ma chiunque fosse, là fuori, stava attaccato alla porta. Altro brutto segno. Sapevo che il pavimento scricchiolava, perciò non c'era modo di sgattaiolare nell'altra stanza e guardare dalla finestra. Hanno bussato di nuovo e io ho detto: «Chi è?» «Sono Audrey Bell», ha risposto una voce di uomo. «Lei è il signor Slater?» «Che cosa vuole?» ho gridato senza muovermi dal divano. «Ho qualcosa per la signora Slater. Ha vinto una cosa. La signora è in casa?» «La signora Slater non abita qui», ho detto io. «Beh, comunque lei è il signor Slater, no?» ha detto l'uomo. «Signor Slater!» è giù uno starnuto. Mi sono alzato dal divano. Ho tolto il catenaccio e ho aperto un poco la porta. Era un tipo anziano, grasso e infagottato dentro l'impermeabile. L'acqua gli colava giù per l'impermeabile e andava a sgocciolare sullo strano valigione che portava. Ha sorriso e l'ha appoggiato a terra. Mi ha teso la mano. «Piacere, Aubrey Bell», ha detto. «Non la conosco», ho detto io. «La signora Slater», ha esordito. «La signora Slater ha riempito una scheda». Da una tasca interna ha tirato fuori un mazzetto di schede e le ha sfogliate a una. «Ecco qua, signora Slater, 255 South 6th East, giusto?» «Beh, la signora Slater è una vincitrice nata». Si è tolto il cappello e ha annuito solennemente. Poi lo ha sbattuto contro l'impermeabile come se non ci fosse nient'altro da aggiungere. La corsa è finita, il capolinea è raggiunto. Poi è rimasto in attesa. «La signora Slater non abita qui», ho detto. «Che cosa ha vinto?» «Ve lo devo fare vedere», ha detto lui. «Posso entrare?» «Non so, se non è una cosa lunga», ho detto. «Sa, ho molto da fare». «Va bene», ha detto. «Mi lasci solo togliere questo impermeabile. E le galosce. Non vorrei bagnarle la moquette. Vedo che lei ce l'ha la moquette, signore». Alla vista della moquette, lo sguardo gli si è prima illuminato, poi velato. È stato scosso da un brivido, quindi si è tolto l'impermeabile, l'ha scrollato per bene e lo ha appeso per il colletto al pomello della porta. «Qui starà benissimo», ha detto. «Accidenti, che tempaccio!» Si è chinato per slacciarsi le galosce. Ha spinto il valigione nella stanza, poi si è sfilato le galosce e si è infilato in casa con un paio di pantofole ai piedi. Ho richiuso la porta. Ha visto che stavo fissando le pantofole e così ha detto: «Lo sa che W.H. Auden, la prima volta che è andato in Cina, ha sempre e soltanto calzato pantofole. Non se le è mai tolte. Calli». Ho alzato le spalle, ho dato un'altra occhiata per strada in caso si vedesse il postino e poi ho richiuso la porta. Aubrey Bell stava fissando la moquette. Ha stretto le labbra, poi si è messo a ridere. Rideva e scrollava la testa. «Che c'è di tanto buffo?» gli ho chiesto. «Niente, oh signore», ha detto. Si è rimesso a ridere. «Mi sa che sto diventando matto, mi sa che ho la febbre». Si è portato una mano alla fronte, aveva i capelli tutti appiccicati e il segno rosso del cappello tutto intorno alla testa. «Secondo lei è scotto?» ha chiesto. «Non so, Mi sa che mi sta venendo la febbre. Continuava a fissare la moquette. Non è che ha un'aspirina? Che le succede? Gli ho chiesto. Non vorrà mica ammalarsi a casa mia. Ho un sacco di cose da fare. Ha scrollato la testa, si è seduto sul divano, ha cominciato a grattare la moquette con la punta di una pantofola. Sono andato in cucina, ho sciacquato una tazza e tirato fuori due aspirine da un flaccone. Prenda, gli ho detto. Poi mi sa che è meglio che se ne vada. Parla a nome della signora Slater? Ha sibilato. No, faccia finta che non ho detto niente. Si è passato una mano sulla faccia, ha mandato giù le aspirine. Lo sguardo ha cominciato a saltellare da una parte all'altra della stanza spoglia, poi a fatica si è piegato in avanti e ha sciolto le cinghie che chiudevano la valigia, che si è spalancata di colpo, rivelando tanti scompartimenti pieni di una serie di flessibili di gomma, spazzole, tubi di metallo lucido e un aggeggio azzurro dall'aria pesante montato su rotelle. Si è messo a fissare quelle cose come se fosse sorpreso di trovarle lì. Poi a bassa voce, come se si trovasse in chiesa, mi ha chiesto: «Sa che cos'è questo?» Mi sono avvicinato. «Direi che è un aspirapolvere. Ma guardi che non lo voglio comprare», gli ho detto. «Non c'è proprio pericolo che mi voglia comprare un aspirapolvere. Ora le faccio vedere una cosa», ha detto lui. Ha tirato fuori un'altra scheda dalla tasca della giacca. «Guardi un po' qua», mi ha detto porgendomela. «Nessuno ha detto che se lo deve comprare. Però guardi un po' la firma. È o non è la firma della signora Slater?» Ho guardato la scheda. L'ho messa sotto la luce, l'ho rigirata, ma sul retro non c'era scritto niente. «E allora?» gli ho chiesto. «E allora la scheda della signora Slater è stata estratta a sorte da un cesto pieno di altre schede, centinaia di schede come questa. Ha vinto pulitura e lavaggio completo della moquette. La signora Slater è una vincitrice nata. Nessun impegno. Sono qui per pulirle anche i materassi, signor... Resterà sorpreso nel vedere quanta roba si può accumulare in un materasso nel corso dei mesi, nel corso degli anni. Ogni giorno, ogni notte della nostra vita ci lasciamo dietro pezzettini di noi stessi, scaglie di questo, di quello. Dove vanno a finire, secondo lei, questi pezzetti, queste scaglie? Dritti sul materasso, attraverso le lenzuola, ecco dove vanno a finire. E nei cuscini, stessa cosa». Intanto si era messo a tirare fuori vari pezzi di metallo e ad assemblarli, quindi li ha collegati a un tubo di gomma, si era messo in ginocchio sul pavimento e grugniva un po' a ogni sforzo. Alla fine ha attaccato una specie di paletta e ha tirato fuori l'aggeggio azzurro con le rotelle. Mi ha fatto vedere il filtro che aveva intenzione di usare. «Ha una macchina?» mi ha chiesto. «Niente macchina», ho risposto. «Non ce l'ho la macchina. Se ce l'avessi l'accompagnerei da qualche parte». «Peccato», ha detto lui. «Questo aspirapolvere qui monta una prolunga di 20 metri. Se avesse la macchina potrebbe trascinarsi dietro questo coso qui fino alla portiera e pulire a fondo i tappetini e tutta la tappezzeria, compresi i preziosi sedili reclinabili. Non ci crederebbe quanto di noi si perde, quanto di noi si raccoglie in quei bei sedili anno dopo anno. Senta, signor Bell», ho detto io, «secondo me farebbe meglio fare su tutto quanto e andarsene. Lo dico senza rancore, mi creda». Ma lui si stava guardando intorno in cerca di una presa a muro. Ne ha trovata una all'altro capo del divano. L'aspirapolvere si è messo in moto, vibrando tutto come se dentro ci fosse una biglia o qualche bullone lento che poi però si è ridotto a un ronzio soffocato. Rilke ha passato tutta la vita adulta spostandosi da un castello all'altro. «Benefattori», ha detto, alzando la voce sopra il ronzio dell'aspirapolvere. Raramente viaggiava in automobile, preferiva il treno. E pensi a Voltaire, a Chiret, con Madame Châtelet, alla sua maschera funeraria. Una tale serenità. Ha alzato la mano destra come se si aspettasse che sollevassi un'obiezione. «No, non è giusto, vero? Non stia neanche a dirmelo. Però chissà». A quel punto si è girato e si è trascinato l'aspirapolvere nella stanza accanto. C'era un letto, una finestra. Le coperte erano ammucchiate sul pavimento. un solo cuscino, un lenzuolo sul materasso. Ha sfilato la federa dal cuscino e poi ha rapidamente liberato il materasso dal lenzuolo. Si è messo a fissare il materasso, poi mi ha lanciato uno sguardo con la coda dell'occhio. Sono andato in cucina e ho preso la sedia. Mi sono seduto sulla soglia e mi sono messo a guardare. Per prima cosa ha provato il risucchio appoggiando la paletta sul palmo della mano. Si è chinato e ha girato una manopola sul motore. Per un lavoro del genere bisogna regolarlo al massimo, ha detto. Ha ricontrollato il risucchio, poi ha allungato il tubo a capo del letto e ha cominciato a passare la paletta su tutto il materasso. La paletta si tirava dentro il materasso, il motore ronzava più forte. È passato 3 volte su tutto il materasso, poi ha spento il motore. Ha toccato una levetta e il coperchio si è aperto di scatto. Ha tirato fuori il filtro. Questo è solo un filtro dimostrativo. Normalmente questa roba, tutto questo materiale, passerebbe direttamente nel sacchetto. Qui, ha detto. Ha stretto tra le dita un pizzico di polvere. Ce ne deve essere stata almeno una manciata. Ha fatto una faccia strana. Non è il mio materasso, gli ho detto. Mi sono piegato in avanti sulla sedia e ho cercato di dimostrare un certo interesse. E adesso passiamo al cuscino, ha detto lui. Ha messo il filtro usato sul davanzale della finestra e ha guardato un po' fuori. Quindi si è voltato. Vorrei che mi reggesse il cuscino da questa parte, mi ha detto. Mi sono alzato e ho afferrato 2 angoli del cuscino. Mi pareva di tenerlo per le orecchie. Va bene così, gli ho chiesto. Ha annuito. È andato nell'altra stanza ed è tornato con un altro filtro. Quanto costa uno di questi affari? Gli ho chiesto. Quasi niente, ha detto. Sono fatti solo di carta e di un pezzetto di plastica. Non possono costare tanto. Quindi ha fatto ripartire il motore col piede e io ho stretto la presa mentre la paletta affondava per tutta la lunghezza del cuscino 1, 2, 3 volte. Poi ha spento l'interruttore, ha tolto il filtro e me lo ha mostrato senza dire una parola. L'ha messo sul davanzale accanto all'altro. Quindi ha aperto l'armadio e ha guardato dentro. Ma c'era soltanto una scatola di veleno per topi. Ho sentito dei passi sulla veranda. Lo sportello della buca delle lettere si è aperto e si è richiuso. Ci siamo scambiati un'occhiata. Lui si è tirato dietro l'aspirapolvere nell'altra stanza e io l'ho seguito. Abbiamo visto la lettera rovesciata sulla moquette davanti alla porta. Mi sono avvicinato alla lettera, poi mi sono voltato e gli ho detto: «C'è altro? Si sta facendo tardi. Questa moquette qui non vale neanche la pena di metterci le mani. È solo uno scampolo di cotone 4x5 con fondo antisdrucciolo della città del tappeto. Davvero non vale la pena di metterci le mani. Ha per caso un posacenere pieno?» ha risposto lui. «O una pianta in vaso o qualcosa di simile? Andrebbe bene anche una manciata di terra.» Gli ho trovato il posacenere, l'ha preso e ne ha rovesciato il contenuto sulla moquette, schiacciando cenere e cicche con la suola della pantofola. Si è rimesso in ginocchio e ha inserito un nuovo filtro. Poi si è tolto la giacca e l'ha gettata sul divano. Aveva le ascelle tutte sudate. Rotolini di grasso straripavano dalla cintura. Ha svitato la paletta dal tubo e al suo posto ha montato un altro affare. Ha regolato di nuovo la manopola col piede, ha rimesso in moto la macchina e ha cominciato a passare il tubo avanti e indietro sulla moquette consunta. Per 2 volte ho fatto per prendere la lettera. Ma era come se lui mi anticipasse, come se mi tagliasse la strada, diciamo così, con il suo flessibile e i tubi. E quello spazzare avanti e indietro. Ho riportato la sedia in cucina. Mi sono seduto e l'ho guardato mentre si dava da fare. Dopo un po' ha rispento la macchina, ha aperto il coperchio e in silenzio mi ha portato il filtro brulicante di polvere, peli e granelli di non so che. Ho dato un'occhiata al filtro, poi mi sono alzato e l'ho buttato nella spazzatura. Ora lavorava di buona lena. Niente più spiegazioni. È arrivato in cucina con una boccetta contenente un dito di liquido verde. L'ha messa sotto il rubinetto e l'ha riempita. «Avrà capito che non posso pagarla», gli ho detto. «Non le potrei dare $1 neanche se ne andasse della mia vita. Mi sa proprio che dovrà considerarmi una perdita secca, tutto qui. Con me spreca il suo tempo», gli ho detto. Volevo solo che fosse tutto chiaro, senza malintesi. Ha continuato a fare quello che stava facendo. Ha attaccato un altro accessorio al tubo, poi con una manovra complicata ci ha agganciato la boccetta. Ha cominciato a ripassare la moquette, facendo schizzare di tanto in tanto rivoli di liquido color smeraldo dall'accessorio, spazzolando la moquette avanti e indietro e creando zone piene di schiuma. Ormai gli avevo detto tutto quello che volevo dirgli. Sono rimasto seduto in cucina, mi sono rilassato, limitandomi a osservarlo lavorare. Ogni tanto guardavo la pioggia fuori dalla finestra. Cominciava a farsi scuro. Lui ha spento l'aspirapolvere. Era nell'angolo davanti alla porta d'ingresso. «Le va un caffè?» gli ho chiesto. Ansimava. Si è passato una mano sulla faccia. Ho messo sull'acqua. E nel tempo che ci è voluto perché bollisse e io preparassi due tazze di caffè, lui aveva già smontato l'aggeggio e rimesso tutto nella valigia. Poi ha raccolto la lettera. Ha letto il nome del destinatario e ha esaminato da vicino l'indirizzo del mittente. Quindi ha piegato la lettera a metà e se l'è messa nella tasca posteriore dei pantaloni. Io ho continuato a osservarlo. Non ho fatto altro. E il caffè cominciava a raffreddarsi. «È indirizzata a un certo signor Slater», ha detto. «Ci penso io», poi ha aggiunto. «Magari a quel caffè ci rinuncio. È meglio che non ci passo sulla moquette. L'ho appena lavata». «Già», ho detto io. Poi gli ho chiesto: «È sicuro che la lettera è indirizzata a chi ha detto?» Si è allungato verso il divano per riprendersi la giacca, se l'è infilata e ha aperto la porta d'ingresso. Pioveva ancora. Si è messo le galosce, le ha allacciate, poi ha indossato l'impermeabile e ha gettato un'occhiata in casa. «Vuole vederla?» ha detto. «Non mi crede?» «È che mi pare un po' strano», ho risposto io. «Beh, sarà meglio che vada». Ma è rimasto lì impalato. «Lo vuole o no questo aspirapolvere?» Ho guardato il valigione, ormai tutto chiuso e pronto ad andare altrove. «No», gli ho detto. «Mi sa proprio di no. Tanto fra poco me ne vado di qui. Mi sarebbe solo d'impaccio». «Va bene allora», ha detto. E ha chiuso la porta. Limonata. Quando qualche mese fa venne a casa mia per prendere le misure degli scaffali, Jim Sears non sembrava certo un uomo che avrebbe perso l'unico figlio nelle acque profonde del fiume Elwha. Aveva la chioma ricciuta, l'aria sicura, faceva scrocchiare le dita pieno di energia mentre discutevamo di mensole e supporti, sceglievamo una venatura di rovere piuttosto che un'altra. Ma è una città piccola, questa, un piccolo mondo. 6 mesi più tardi, dopo che gli scaffali sono stati costruiti, consegnati e montati, il padre di Jim, il signor Howard Sears, che sta sostituendo il figlio, viene a dipingerci la casa. Mi dice, quando gli chiedo più per cortesia che per altro, «E Jim come sta?», che suo figlio ha perso Jim Junior a primavera. Ora Jim dà la colpa a se stesso. «Non riesce a farsene una ragione, niente», aggiunge il signor Sears. «Mi sa pure che c'è uscito un po' di testa», aggiunge tirandosi la visiera del berretto con il marchio Sherwin Williams. Jim ha dovuto restare lì a guardare mentre l'elicottero afferrava e sollevava il corpo del figlio dal fiume con una grossa pinza. Hanno usato una specie di grossa pinza da cucina, pensi un po', attaccata a un cavo. «Ma Dio, si prende sempre le creature più dolci, non è vero?» dice il signor Sears. «Le sue intenzioni sono un mistero». «E lei che ne pensa?» gli chiedo io. «Non ci voglio pensare. Non sta a noi interrogarci o discutere le sue azioni. Non ci è dato saperlo. So solo che ormai se l'ho portato a casa il piccolo. Mi dice poi che la moglie di Jim Senior lo ha trascinato in 13 paesi diversi in Europa nella speranza che si mettesse l'anima in pace. E invece niente da fare. Missione incompiuta, dice Howard. Jim si è beccato pure il morbo di Parkinson. Cos'altro? Adesso è tornato dall'Europa, ma si dà ancora la colpa per aver mandato Jim Junior quel giorno a prendere il termos con la limonata in macchina. Non c'era mica bisogno di limonata quel giorno. Oh signore, signore, come gli è venuto in mente? Ripete Jim 1000 volte ormai a chiunque ancora voglia di starlo a sentire. Se solo non l'avesse fatta proprio la limonata quel giorno. Ma come gli era venuto in mente di farla? Anzi, se la sera prima non avessero fatto la spesa al Safeway e se quel cesto di limoni giallini non fosse stato accanto al posto dove tenevano le arance, le mele, i pompelmi e le banane. Ecco cos'era andato lì a comprare Jim Senior. Qualche arancia e le mele, altro che i limoni per fare la limonata. Limoni, ma per carità, li detestava lui i limoni. Ora più che mai, ma a Jim Junior la limonata piaceva. Gli era sempre piaciuta. Voleva la limonata. Mettiamola così, diceva Jim Senior. Quei limoni dovevano venire da qualche parte, no? Dall'Imperial Valley, magari, o dalle parti di Sacramento, li coltivano lì, no? I limoni. Dovevano averli piantati, irrigati e curati. E poi i braccianti li hanno messi nei sacchi e pesati, sistemati nelle cassette, spediti per ferrovia o in camion fino a questo maledetto posto dove non si fa altro che perdere figlioli. Quelle cassette sono state scaricate dal camion da ragazzi non molto più grandi di Jim Junior. Poi sono stati tirati o versati fuori dalle cassette, tutti gialli e odorosi di limone, da quegli stessi ragazzi lavati e sciacquati da un giovanotto che era ancora vivo, passeggiava in città, respirava, grande e grosso com'è. Poi sono stati portati dentro il supermercato e sistemati in quel cesto sotto un cartello vistoso che diceva «Da quanto tempo non bevete una bella limonata fresca?». Secondo Jim Senior, bisognava risalire sempre alle prime cause, fino al primo limone coltivato sulla terra. Se non ci fossero stati i limoni sulla terra e non ci fossero stati i supermercati Safeway, beh, Jim avrebbe ancora suo figlio, no? E Howard Sears avrebbe ancora suo nipote, certo. Capisce? C'erano un sacco di persone coinvolte in questa tragedia. C'erano i coltivatori e i raccoglitori di limoni, i camionisti, il supermercato Safeway. Jim Senior pure era prontissimo ad assumersi la sua parte di responsabilità. È chiaro. Anzi, era lui il più colpevole di tutti. Ma continuava a scendere in picchiata, mi disse Howard Sears. Eppure doveva tirarsi su in qualche modo. Tutti avevano avuto il cuore spezzato, certo. Però lo stesso... Poco tempo fa la moglie di Jim Senior lo ha iscritto a un piccolo corso di scultura in legno qui in città. Ora lui cerca di intagliare orsi e foche, gufi, aquile, gabbiani, qualsiasi cosa. Però non riesce a concentrarsi su nessuna creatura abbastanza lungo da finire il lavoro, secondo il signor Sears. Il guaio è, continua Howard Sears, che ogni volta che Jim Senior alza gli occhi dal tornio o dallo scalpello, vede suo figlio uscire dall'acqua del fiume a valle e sollevarsi, tirato su al mulinello per così dire, cominciare a girare in tondo fino a salire su, oltre gli abeti, con la pinza che gli spunta dalla schiena, e poi l'elicottero vira e si dirige a monte, accompagnato dal rombo e dal frap frap delle pale. Jim Junior passa ora sopra le teste dei soccorritori allineati lungo le rive del fiume, ha le braccia in fuori e gocce d'acqua gli volano via di dosso. Passa sopra di loro un'altra volta, ora più basso, ma poi torna un minuto dopo per essere depositato, molto delicatamente, proprio ai piedi del padre. Un uomo che, avendo ormai visto tutto, il figlio morto alzarsi dal fiume nella morsa di pinze metalliche, poi girare in tondo volando sopra la cima degli alberi, non vorrebbe fare altro che morire. Ma la morte è solo per i più dolci. E lui ricorda la dolcezza. Quando la vita era dolce e dolcemente, ti era stata assegnata quell'altra vita.